GR24, il sole 24 ore. Domani il varo della manovra Bonaiuti sarà di 24 miliardi e senza condoni. Sarà la notte della verità per la legge sulle intercettazioni, spuntano modifiche. In arrivo i soldi per la sicurezza delle scuole, sull'inizio delle lezioni a ottobre l'apertura del ministro Gelmini. La capitale della Giamaica a ferro e fuoco, una rivolta contro l'estradizione di un signore della droga. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. La manovra finanziaria non è ancora ultimata, solo domani il governo incontrerà le parti sociali, ma le tappe sembrano ormai definite. Domani ci sarà anche il Consiglio dei Ministri e questa mattina qualche dettaglio l'ha dato il sottosegretario Bonaiuti. Andiamo allora subito da Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo un fine settimana di lavoro per i tecnici del Ministero dell'Economia, la manovra dunque ha i suoi dettagli finali. Il ministro Tremonti illustrerà il testo questa sera, la consulta economica del Popolo della Libertà. Domani alle 12 sarà la volta delle parti sociali, industriali e sindacati. Nel pomeriggio poi il provvedimento arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una correzione nei conti dello Stato nel prossimo biennio da 24 miliardi di euro. Due gli obiettivi di Palazzo Chigi: limitare da una parte il peso e il perimetro dello Stato, dall'altra parte spendere meglio i soldi pubblici. Questa mattina ulteriori dettagli li ha forniti ai microfoni Mediaset il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bonaiuti. Niente nuove tasse, no al condono edilizio, le pensioni non si toccano, ha detto Bonaiuti, ma ascoltiamo le sue parole. Non ci sarà nessun condono edilizio, nessuno metterà le mani in tasca ai cittadini, quindi niente tasse. Quella che è l'entità delle pensioni non si tocca e questo mi sembra fondamentale. Ci può essere un aggiustamento sulle finestre. Preoccupati i sindacati e gli enti locali, critica l'opposizione, chiediamo al governo di fare una manovra che non sia di forbici e di emergenza ma di riforme, dice Enrico Letta dal Partito Democratico, e da Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. Non c'è solo l'Italia alla presa con i conti, anche la Germania prepara un drastico piano d'austerity per i prossimi anni con tagli per 10 miliardi di euro all'anno fino al 2016. Questo almeno quanto scrive il Financial Times, sottolineando che il piano di Berlino sarà uno shock per gli altri paesi membri dell'area. Il programma di tagli dovrebbe basarsi su un aumento della pressione fiscale oltre che sulla riduzione di spesa, nonostante le precedenti promesse della coalizione di governo tedesca di ridurre le tasse. E sentiamo come sta andando sui mercati intanto questo avvio di settimana. Ancora una buona giornata a Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Anne e a tutti gli ascoltatori. Allora, l'avvio di settimana sembrava promettente questa mattina, poi c'è stato un cambio di direzione abbastanza drastico e gli indici sono tutti quanti in rosso. Parigi meno 0,6, un po' più pesante Francoforte meno 1,35, Londra meno 0,6, ma soprattutto Milano stamattina perde terreno pesantemente, almeno a giudicare dalla prestazione del FTSE MIB 40, il principale paniere di Piazza Affari, che perde il 2,83%. Cosa succede? Un fattore puramente tecnico, quindi non spaventiamo gli ascoltatori. C'è l'effetto dello stacco dei dividendi che coinvolge ben 27 società del FTSE MIB, i pesi massimi, quindi le società più importanti, praticamente quasi tutte le banche, ma anche Exor, i titoli del petrolio, Geox, Mediaset, praticamente i due terzi del listino. E questo naturalmente condiziona pesantemente la performance. Al netto dello stacco del dividendo, Milano perderebbe circa lo 0,8%, quindi sarebbe in linea con le altre borse europee. Da monitorare ancora l'euro sul dollaro, che dopo essere partito bene stamattina oltre la soglia di 1,25 è ritornato prepotentemente indietro, adesso il cross è a 1,23,91. Per ora è tutto. Grazie, le banche italiane sono solide, dice intanto il rapporto sul sistema italiano presentato all'ABI, Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Se il 2009 è stato difficile per le banche italiane a causa della crisi, il 2010 sarà particolarmente difficile. L'ha detto il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, presentando l'ultimo rapporto sul settore. Un rapporto che prende in considerazione 41 gruppi bancari fino al 31 dicembre 2009. I dati mostrano la riduzione della redditività al 4% contro il 5,3% del 2008. Un utile netto che si contrae del 22%, passando a 8 miliardi. Aumentano anche sofferenze scadenze e rettifiche sui crediti, mentre migliora solo il livello di patrimonializzazione che dal 6,89% del 2008 sale oltre l'8%. L'ABI dunque chiede coesione e collaborazione da parte dei soggetti economici in un momento così delicato, ma soprattutto l'impegno delle istituzioni per un quadro regolamentare coerente. Tuttavia questa mattina l'ABI ha presentato anche qualche dato positivo, in particolare il settore bancario italiano, nonostante il difficile contesto, sta solidità anche rispetto ai paesi più forti dell'Eurozona, e questo perché la quantità e la qualità del patrimonio delle banche italiane sono adeguate a garantire la stabilità del sistema, assicura l'Associazione Bancaria Italiana. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara Grandis. C'è intanto l'ufficialità arrivata proprio in questo istante: il governo ha convocato le parti sociali domani alle 12 a Palazzo Chigi, verrà illustrata la manovra. Ma c'è anche intanto un'altra partita sul tavolo del governo. Si apre questa sera infatti il rush finale in Commissione Giustizia al Senato per il disegno di legge sulle intercettazioni. In nottata dovrebbe essere più chiaro se il governo sceglierà la linea dura o se ci saranno modifiche, come invece sembra. È così, Andrea Viali? Sì, è così, Anna. La maggioranza stringe i tempi e punta a chiudere entro oggi l'esame, come dicevi, del contestato disegno di legge sulle intercettazioni da parte della Commissione Giustizia del Senato, commissione che si riunirà in seduta notturna. Il provvedimento, poi ricordiamo, dovrà essere discusso anche dall'Aula, ma l'obiettivo del Premier Berlusconi sarebbe quello di arrivare ad un testo definitivo, quindi inemendabile già a Palazzo Madama, per evitare poi sorprese nel successivo passaggio alla Camera, dove c'è il timore di imboscate da parte della minoranza finiana, minoranza che chiede di modificare alcuni aspetti di questa legge, aspetti che riguardano il diritto di cronaca, in particolare per rendere possibile almeno la pubblicazione sui giornali delle sintesi delle intercettazioni, cosa che peraltro era prevista nella versione della legge uscita da Montecitorio, ma che poi è stata eliminata in Senato. Su questo punto però non sembrano disposti a trattare i falchi del PDL, che tuttavia non escludono un qualche ritocco al testo. Modifiche sono state in qualche modo auspicate anche dal ministro della giustizia Alfano, però invece c'è l'opposizione netta da parte del centrosinistra, per la quale la legge è tutta da buttare, quindi si annuncia battaglia e ostruzionismo in Parlamento. Da Roma è tutto. E sentiremo come andrà questa notte. Grazie nel frattempo ad Andrea Viali. Intercettazioni, secondo voi occorre limitarne l'uso? Era questo intanto quanto vi abbiamo chiesto questa mattina nel nostro sondaggio. Il 20% di voi ha risposto di sì, l'80% ha risposto che non occorre limitarne l'uso. Il giorno dopo il ricordo della strage di Capaci, questa mattina operazione contro la mafia ed è scattata in una zona considerata molto difficile, quella di Gela. I tentativi di infiltrarsi nel mondo degli appalti del petrolchimico, ma anche i vani sforzi di prendere possesso della squadra di calcio di Gela, posti in essere sul finire degli anni 90 da Cosa Nostra, sono stati scoperti dagli investigatori che hanno eseguito 7 arresti. Nel mirino di Cosa Nostra era finita la squadra della Juve Terranova, guidata all'epoca da un ingegnere, Fabrizio Risciandra, che operava anche all'interno del petrolchimico. Il boss di Gela, Daniele Emanuello, chiese all'ingegnere di dimettersi dal vertice societario calcistico e collaborare con lui negli appalti al petrolchimico. Ma l'ingegnere si rifiutò e ciò gli costò un mortale agguato al quale sopravvisse sol perché l'arma usata dai killer si inceppò dopo averlo gambizzato. Nel corso dell'inchiesta condotta dalla DDA di Caltanissetta sono stati individuati anche i presunti responsabili di un'aggressione e vari danneggiamenti ai danni di un imprenditore per estorcergli 15 milioni delle vecchie lire. Fra le persone finite in manetta c'è anche un medico, accusato adesso di concorso esterno in associazione mafiosa. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Caltanissetta. E parliamo ancora di interessi economici nel mondo del calcio. Conto TV non ha sofferto particolari svantaggi nella teorica possibilità di accedere al pacchetto che ha assegnato i diritti per trasmettere le partite. Ricorso respinto dunque questa mattina con queste motivazioni per l'emittente toscana, che al Tribunale di Milano chiedeva di congelare il contratto tra Lega Calcio e Sky. Le prime impressioni di Marco Crispino, editore di Conto TV, al microfono di Roberto Bonanni. Per il momento posso dire semplicemente che mi dispiace, che aspettiamo di leggere le motivazioni per decidere se fare reclamo oppure no. Noi abbiamo fatto l'altro ricorso, l'avevamo fatto sempre contro la Lega, era sempre sullo stesso caso, dove avevamo vinto. Poi alla fine c'era stato dato torto non sul merito ma sulla competenza, nel senso che la Corte d'Appello, dopo che per tre volte si era presa la competenza, aveva detto non sono più competente. Dopodiché noi abbiamo visto, c'erano ancora i termini, sul merito non c'è mai stato dato torto, per cui abbiamo deciso di fare un altro ricorso. Purtroppo non c'ho niente per capire se ci sono gli estremi per fare un reclamo. Ancora credo che non ce l'abbiamo ancora neanche la Lega. Stiamo aspettando tutti quanti di avere copie delle motivazioni. Sentirò i miei avvocati, appena mi arrivano le motivazioni, le leggiamo insieme e decidiamo cosa fare. Sono in arrivo i primi 358 milioni stanziati dal governo per mettere in sicurezza le scuole. La maggior parte, poco meno di 50 milioni, andranno alla Lombardia per 152 interventi. 38 milioni andranno alla Campania, all'Istituto Darwin di Rivoli, nel Torinese, dove ricorderete uno studente morì per il crollo di un soffitto. Vanno 3 milioni di euro. Inizio della scuola rinviato ad ottobre, si discute della proposta e questa mattina ai microfoni di Sky è intervenuto il ministro Maria Stella Gelmini. Se ne discute da tempo di un rinvio dell'inizio dell'anno scolastico, è chiaro che è una proposta sulla quale si può discutere, io sono molto aperta su questo tema perché effettivamente il nostro paese vive di turismo, oggi le vacanze non sono più per le famiglie concentrate a luglio ad agosto, a settembre si possono avere anche migliori opportunità sul piano economico, quindi per certi versi uno slittamento dell'inizio dell'anno scolastico potrebbe aiutare le famiglie ad organizzare meglio il periodo delle vacanze. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24, domani il varo della manovra, Bonaiuti sarà di 24 miliardi e senza condoni, alle 18 di domani convocato il Consiglio dei Ministri. E intanto la prossima sarà la notte della verità anche per la legge sulle intercettazioni, in vista ci sono modifiche. In arrivo i soldi per la sicurezza delle scuole, sull'inizio delle lezioni a ottobre l'apertura del ministro Gelmini. Il calcio, la Serie A resta Sky, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di Conto TV. La capitale della Giamaica ferro e fuoco, una rivolta contro l'estradizione di un signore della droga. E ripartiamo da qui perché la capitale della Giamaica, Kingston, ci sono in corso duri scontri di piazza in questi minuti, alcune gang vogliono impedire l'arresto di un narcotrafficante. Donne e bambini sono già stati fatti evacuare da Tivoli Gardens e Denham Town, i quartieri della capitale teatro di pesanti scontri tra polizia e bande armate di narcotrafficanti. Tutto è cominciato per l'arresto di Christopher Dudus Koch, trafficante di droga minacciato di estradizione verso gli Stati Uniti. Un agente di polizia e un civile sono rimasti feriti da alcuni colpi d'arma da fuoco, mentre quattro commissariati sono stati assaltati e incendiati. Un attacco calcolato all'autorità dello Stato, ha commentato il primo ministro giamaicano Bruce Golding. Non permetteremo alle gang di trionfare. Quindi ha decretato lo stato di emergenza per un mese a Kingston e nella vicina St. Andrew. Christopher Koch è accusato di essere il capo della più importante banda dell'isola dedita al traffico di stupefacenti con ramificazioni negli Stati Uniti dove spaccia marijuana e crack. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. È in via di conclusione l'eruzione del vulcano islandese che nelle scorse settimane ha causato gravi problemi al traffico aereo di tutta Europa, Italia compresa. Ieri, questa è la notizia, per la prima volta non si è registrata attività. This is our chance to change things. This is our destiny. And if you're wrong, then everyone on the island dies. The answers are coming. ABC's Lost, the final season. L'ultima puntata della serie televisiva Lost è stata trasmessa in Italia stamattina alle 6 in contemporanea con gli Stati Uniti. Dopo 6 anni di avventure, da questo episodio sarebbero dovute arrivare le risposte agli innumerevoli misteri creati dagli autori della serie. È la prima volta che la puntata di un serial va in onda in contemporanea con gli Stati Uniti. Sentiamo Mattia Nicoletti. Lost è finito, la serie più incredibile che la televisione abbia mai trasmesso, si è conclusa circa alle 8 orario italiano e il titolo dell'episodio finale era The End, la fine, e infatti così è stato. Gli spettatori si attendevano tantissime risposte, molte le hanno avuto, non vogliamo rivelare niente, ma i grandi amori si dichiarano, le realtà parallele si incontrano, l'isola si arrabbia perché i nostri vogliono abbandonarla. Ci sono quindi aerei che vogliono decollare, uomini investiti di responsabilità, lotte fisiche fra bene e male, che poi fondamentalmente sono quelle fra Jack e Locke, ma questo gli appassionati lo sanno già. In un certo senso possiamo dire che l'ultimo episodio di Lost è come i grandi film hollywoodiani, cioè pieno di sentimenti, di guerre, di umanità, passione. Non si può non versare una lacrima, sinceramente, anzi è un dovere quasi, anche se molti criticheranno questo finale, ma questo è normale. Un'unica grande sorpresa è quello che io ho definito il Faith Forward, cioè dopo tutti i viaggi nel tempo, qui c'è un viaggio nella fede proprio. Da sempre si dice che Lost è un confronto fra la scienza e la fede, e Lost finisce proprio lì, facendo trionfare la fede, perché alla fine credere come sognare credo sia fondamentale. Quando una parola diventa ingiuria, la Cassazione sta riscrivendo il vocabolo delle ingiurie, allora ecco quando è reato, lo scrive oggi il Sole 24 Ore del lunedì. L'asticella dell'ingiuria si sposta di continuo, lo sanno bene i giudici della Cassazione, che giorno dopo giorno si confrontano con i mutamenti del comune sentire. Ed è così anche per le offese alla persona, dove l'illecito non sembra più circoscritto solo all'uso di termini volgari. Anzi, il turpiloquio è sempre più spesso tollerato. Ormai se qualcuno ci manda a quel paese, difficilmente riusciremo a sporcargli la fedina penale. E così, ad esempio, nel dizionario dei vocaboli proibiti può trovare spazio l'aggettivo lewinskiana, evocando la saggista di Bill Clinton, e anche l'espressione gay, se pronunciata con l'intento di offendere, diventa reato. La scorsa settimana invece la Cassazione ha stabilito che definire neonazisti o nazifascisti i partecipanti a una manifestazione di Forza Nuova, movimento di estrema destra, rientri nel diritto di critica. Nell'ambito politico sempre più spesso si chiude un occhio, e dare del rimbambito o compagno di merenda all'avversario rientra ancora nel bon ton. Andrea Maria Candidi, GR24 e Il Sole 24 Ore. E chissà cosa rientra nel bon ton sportivo. Lunedì siamo alla pagina sportiva, mi ha raggiunto in studio Dario Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno Anna. Allora, è stato il fine settimana dell'Inter, ma ormai si parla anche di nazionale, e qui ormai a poco dai mondiali invece sono stati, se non ingiuri, almeno fischi. Sì, si passa un po' dagli applausi ai fischi, ecco, diciamo che questo passaggio di testimone non è bellissimo, soprattutto per la nazionale, perché insomma sarebbe stato bello che così nel suo primo bagno di folla con il pubblico azzurro ci fosse così un bel contatto, invece fosse per qualche equivoco, per qualche autografo non firmato dai calciatori, c'è stato qualche fischio a Torino prima della partenza per il Sestriere, ed è un brutto episodio perché segnala che c'è un rapporto di insofferenza verso la nazionale, un rapporto di insofferenza che neanche la vittoria dell'Inter, che forse poi ha molti stranieri, quindi insomma gli italiani non sono, diciamo, la maggioranza, non riesce a coprire fino in fondo. Proviamo a sentire Lippi che parla appunto delle sue caratteristiche di CT di questa nazionale. Credo che sia sempre stato il mio marchio di fabbrica, grande concretezza e grandi campioni che si mettono al servizio della squadra. No, mi sembra di dire qualcosa che non corrisponda alla verità. E questa, io cercherò di ricostruire una squadra che abbia queste caratteristiche, come quelle delle mie squadre del passato e come quelle delle caratteristiche che ha dimostrato l'Inter. Ecco, la squadra del passato. Ecco, c'è un po' questa ombra intorno a Lippi, che la sua sia una squadra del passato. Questo i tifosi l'avvertono, e per cui l'entusiasmo stenta a decollare. Una nota, parlavi di Inter, dopo la festa degli interisti c'è anche la protesta, arriva dalla Curia di Milano che dice troppo caos in Piazza Duomo, era il luogo naturale per la festa, è stata la replica del Comune di Milano. E il Giro d'Italia, siamo ancora allo sport, giornata di sosta per il Giro, ma anche qui l'occasione per fare il punto, Dario, con Piero Augusto Stagi. Sì, un Giro che oggi riposa dopo tante fatiche, perché ci sono state montagne molto pesanti, un Giro che finalmente parla italiano, un Giro che si riapre, un Giro che insomma fa sperare per questa settimana, vero Piero Augusto? Sì, esattamente come state dicendo, oggi è un Giro che riposa, e la giornata per sistemare le biciclette, per incontrare le famiglie, per incontrare le fidanzate, le mogli, per parlare anche con qualche giornalista e soprattutto per guardare anche qualche cartina, ormai mancano poche tappe, mancano 5 sei tappe e domani ce n'è una molto molto importante, che è la cronoscalata di Pan de Corones, dove con ogni probabilità l'Italia che resiste, l'Italia che vuole risalire la china dopo un po' la brutta figura della tappa dell'Aquila, dove e tutte le stelle sono state a guardare, hanno lasciato andare via una fuga di 56 corridori che sono arrivati con oltre 12 minuti di vantaggio. Adesso Basso, Nibali e anche lo stesso Cunego stanno così infiammando la passione. Domanda secca, lo possiamo vincere ancora questo Giro d'Italia? Io credo di sì. L'Ivan Basso che abbiamo ammirato ieri è un Ivan Basso che sta molto molto bene e forse aveva bisogno di una iniezione di fiducia e di convinzione. Credo che ieri se l'abbia assolutamente presa e a questo punto si giocherà questo Giro d'Italia, penso, con il campione del mondo Cadeleno. Secondo me è un duello a due e a Verona applaudiremo o Ivan Basso o Cadeleno. Grazie Piero Augusto Stagi, grazie anche a Dario Ceccarelli per essere stato con noi per la pagina sportiva. Grazie a te. E noi ci fermiamo qui, le 13:25 minuti, si conclude questa edizione di GR24 in regia Carmelo Lauricella. Ancora un saluto da Anna Migliorati, vi lascio con Italia in controluce, prossima edizione del giornale come sempre alle 14, buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.